positivo. Io l'altra domenica, che cosa ho fatto? Ho addormentato la bambina, io ero qui a casa, ho detto se rimango qui sto sempre spizzicando qualcosina e mi sono fatto. Da qui tutto via Grazia Deneta, via Sulcis, il viadotto, tutto via Savoia, via Le Mameri, via Le San Francesco, Ponte Rosello e me ne sono rientrato a casa. Se organizziamo noi coinvolgiamo anche il doppio room e il Pierpaolo, camminiamo e su che ci va. Ehi, vabbè, Pierpaolo gli portiamo i pattini, total più in discesa, molla il freno a mano e andare già si va in discesa, il brutto è fermarsi poi. Già lo so, col problema di quella gamba, mannaggia. Lui non le manca mai, figurati che io giovedì ho preso un colpo al ginocchio dentro lì in camion e mi fa male e sono zoppo. Rientro a casa la sera, sbaglio manovra qui entrando in camera da letto a casa e l'ho sbattuto contro lo spigolo del letto. Sempre lo stesso ginocchio e sempre nello stesso punto. Succede pure a me che è successo. Che poi tu notami, dove ti fa male il colpo va sempre lì. Tu ne hai voglia di dire ma ci sto attento, vedo un pochino di coso, tanto va sempre lì il colpo. Caruso, pure pigna. Cappa, ciao Gianni. Cavolo, mi sono tirato una strombatta di ginocchio, guarda, ieri nello spigolo del letto. Stesso ginocchio e stesso posto, non è a dire ma 2 centimetri più in là o 2 centimetri più su. No, proprio lì. Io una volta mi stavo facendo il bagno, e ha squillato il telefono. E allora avevamo il salottino col tavolino basso, eccetera, eccetera, come si usavano prima, no? Fatto sta che sono le cose, il telefono era, il cordo era sotto al tavolino del salone. Ci vado correndo a piedi nudi, sbatto il mignolino del piede, su un dolore inconfuttabile, giusto, da crepare, le lacrime mi sono scese e mi sono fratturato il lato del piede. Cavolo, vai tu. Poi una pubblicità che per poco non ce la manda in quel paese. Sarà come la telefonata che hanno fatto a me l'altro giorno, no? Squilla il telefono, a momenti mi tronco il collo per andare a recuperarlo su in camion e niente, una telefonata con addebito di chiamata, schiacci uno, e ma che cosa ne so, io ero così, poi magari se qualche urgenza, niente, rispondo, ed era questa imbecillotta, poi oltretutto aveva anche sbagliato l'uero. Sì, vabbè, potevi dare l'appuntamento, almeno qualche cosa servito. Guarda, talmente l'incazzo che me ne son preso, perché poi mi sono fatto oltretutto anche male salendo per prenderlo, gliel'ho chiuso subito il telefono. Se sei sbattuto il ginocchio. Attenzione, Giuseppe, che il ginocchio è delicato, Lo so, guarda, a quanto ce l'ho fatta a dire pronto dal dolore. Ma un dolore così forte, guarda, che mi sono piegato in due. In due perché proprio non faceva. Poi era un dolore talmente, era pungente come dolore. Cavolo, ho detto, già l'ho combinata bella per rispondere al telefono. Succede. Io te l'ho detto, mi sono rotto il mignolino del piede, figurati. Sono stato più di un mese con le due dita fasciate, perché non si può manco ingessare, ti fasciano le due dita una a fianco all'altra e così ti passa. Sono cose che gli succedono ai vivi, dai, tanto cosa si vuol fare. Oramai i colpi li ho presi, il ginocchio mi fa male e via. E poi il meglio, lo sai che cos'è? Che secondo come l'appoggio mi viene una fitta di dolore. Cavolo, mamma mia. Non ti avrei fatto qualche microfrattura? Ma non lo so, guarda, il colpo l'ho preso in pieno perché ho preso in pieno la pedana per salire su in cabina. E quello lì è ferro. E se vedi che persiste a farti male, ti fai una lastra, Giuseppe. Non si sa mai che magari c'è qualche microfrattura e peggiori la situazione. Io mi auguro di no, ma io quando ho avuto quell'incidente in via l'Italia praticamente, che avevamo d'urgenza in ambulanza e questa macchina è uscita, tutte le macchine che erano ferme per farci passare, è uscita da dietro, ci ha preso in pieno, ci ha fatto sbattere al semaforo e poi abbiamo capottato. E praticamente io ho riportato delle microfratture in tutte le ossa, ero due tubo sommari. Ma tu mi microfratture, ero tutto pieno di microfratture, perché ho praticamente, come ha capottato, ho sbattuto sul rubinetto del lavandino che c'era nell'ambulanza, mi ha preso la plafoniera in capo, cioè guarda, tutti colori. E fatto sta che quando sono andato mi hanno detto che non c'avevo niente, e la notte ci siamo telefonati con l'autista, quello che stava guidando l'ambulanza, perché il giorno non ero io che guidavo, ma ero dietro che stavo massaggiando. E mi ha detto, guarda, mi fa male il collo, già detto io che andiamo a farci vedere di nuovo, che quel dottore mi sembrava mezzo gutto. E infatti siamo ritornati, ci hanno fatto le lastre, a Tanino, che è il mio collega, mi hanno detto, chi è Spalletta? Ha detto io, perché non si muovono così, fermo, che c'è una vertebra quasi staccata. E ci ha mandato via a casa, non c'avevo niente. A me mi ha detto che ero tutto pieno di microfratture, ricoverato. E i soluzioni ci avevamo andato a casa dicendo che non ci avevamo nulla. Non per me, dai, sentiamo per un po'. Vabbè, dai, cambiato che sia, ma non usciamo. Sì, io ho messo una tuta, mi sono imbottito bene sotto, ho messo un paio di magliette e via. Va bene così, dai. No, perché stasera dobbiamo andare a fare la sfilata di moda. Ah, trempasa, capasa. Allora io faccio lo spettatore. Vai, sono anch'io. È l'unica cosa comoda che c'ho. E capa, un secondo già che mi sta chiamando Veronica. Vediamo un po' cosa vuole. Capa. Ciao, Danny. Ciao, amore. Come stai? Bene. La brava stai facendo, vero? Sì. Non la fare avviare a mamma, no? Un pochino papà. Un pochino papà fai avviare? Sì. Così è, Giuseppe. Cappa, un pochino di scoletta è Veronica, infatti mi ha chiamato perché ha sentito che stavo ciambrugliando al baracchino, vero è Veronica? Posso parlare? Sì. Va bene. Adesso sei contenta che ti ha fatto parlare papà? Sì. Monellina sta diventando Veronica, Monellina. Quando drommi, quando fai la nana, vero? Sì. No, sei monellina. Sì. Ma non sei monellina, sei un po' di scoletta. Scoletta. Un po' di scoletta. No. Hai un po' birbante. Sì, brava, tuo amore bello. Sei brava. chiuse. Eccolo, eccolo, eccolo, sempre con quello che mi lasci, che lasci parlare. È una cosa che non si crede, guarda. È tipo quando rimetti a caricare il telefonino, no? Basta che siano un pochino a letto, perché non si è portato tutti quanti pupazzi, giocattoli, ce li ha tutti sul letto. Dopodiché sembra che si stia ricaricando via pianino come fai col telefonino. Sembra che sia lì lì noi. No, sono un pochino stanca, faccio da brava, bevo un bar e collo. Come passa la mezz'oretta, l'oretta che lì giocando sul letto è più pimpante di prima. No. Chi dormi se sono i pupazzetti? Lei non dorme. K, dai, adesso digli ciao a Gianni che stiamo andando, vai dentro per la nannetta, dai, dai. Buonanotte. Buonanotte, Perù. Non sapevo che avessi da questa linguetta. Ciao, bella, buonanotte, un bacione. Buonanotte. E non pare, no? No, non pare. Pensavo che parlavamo molto meno, invece c'è una linguetta. Eia, e tu la devi sentire molte volte, guarda, io me la guardo così, dico, ma quando me la smetti? C'è Marco che sembra una persona grande, guarda. E tu di certe battute, certe cose, che sembra una persona adulta. Una cosa allucinante. A volte ci guardiamo con mia moglie, rimaniamo esterrefatti, perché è una cosa, ha delle uscite, guarda, che ti lasciano incantata. Guarda, quello che dico io è che tanto tonti non ne nascono più, quello è sicuro al 100%. Lo più tonto è più bravo di uno che va della terza linea. No, guarda, sono svegli adesso, da Marco da 3 anni usava il computer, fatti un conto. Lei al suo, quello della Clementoni, no? Si mette tutto, fa e disfa e cosa, delle volte quando lo uso io mi si mette a fianco e si apre il suo. E così faceva Marco, anche Marco ce l'ha avuto quella della Clementoni, l'ha avuto per diverse età. Sono cose molto istruttive. Adesso l'ultimo che c'ha è quello della geografia, che ti dice tutte le capitali, dove si trovano i fiumi, dove si trovano i laghi, i monti, ti parla della pastorizia, dell'agricoltura, di da che cosa campa il paese. Storia e geografia, capito? E quello è molto bello e allo stesso tempo è anche molto istruttivo, è cosa che non abbiamo avuto noi quando eravamo ragazzi, hai capito? È un libro che faceva per tutto con 4 figure e tu dovevi applicare su quello. Adesso sono avvantaggiati al massimo, Se no c'è il computer, se non c'è ancora c'è il computer, ma loro ci prendono gusto a giocare e mentre giocano stanno studiando, loro non si rendono conto che stanno apprendendo e sono cose che gli serviranno in seguito poi. Guarda, quello che non devi fare con Veronica, farti vedere quello che stai facendo, se stai smontando qualcosa o se stai facendo qualcosa, perché te lo fotografa e dopo la vedi a lei a coso in mano, facendo, ma io non lo so. Sì. Marco, tu pensa che quando io entravo al computer e cose, guardava come facevo ed è riuscito a scammarmi anche la password, te l'immagini? E quello è un classico, perché guarda l'attenzione che mettono sui movimenti che fai è proprio millimetrica. È millimetrica perché io molte volte non me ne accorgo e mia moglie mi dice fai finta di niente, guarda come ti sta guardando tua figlia lì. E non perde manco una mossa di quello che faccio. Sono astuti, Giuseppe, sono astuti. Ma se l'altro giorno, adesso non mi ricordo che cosa stavo facendo, ha dovuto prendere il cacciavite lì, io gli tenevo il coso, no? Glielo tenevo puntato sulla vite e lì svitava, per dirti. Ma io dico, ma quando mai? Hai appena 3 anni, pensa a giocare con i pupazzetti, tranquilla, ne ha tanti di quei giochi. Niente, quando mi vede che sto facendo qualcosa, molla tutto, prende la sedia, il classico colpo al ginocchio di sedia, come se la avvicina, quello immancabile, e dopodiché su che andiamo lì, sempre in mezzo. Mia nipote l'ha fatta più bella, una volta hai messo il lamento, già. Me la pitturi la casa, visto che sei in figlia, ma non c'è problema, perché ci vogliono un sacco di soldi. No, non c'è problema, te la faccio io. In terrazzo c'era un buco nel muro, e l'ho tutto quanto stuccato, l'ho fatto bene, e poi ho pitturato anche tutto il terrazzo. E c'era sempre mio nipote che mi guardava. Fatto sta che dopo che io ho fatto tutta la casa pitturata e tutto, dove c'era il buco, mio nipote ha preso un martello e scalpello e ne ha fatto un altro. Ah, figurati tu. E dice che doveva imitare a me, che doveva aggiustare il terrazzo come zio Gianni. La cosa più bella è che secondo me riescono a memorizzare alla prima occhiata, non c'è niente da fare, Solo che la differenza è che io era giù qua, cruzato, dentro le fasciate. La madre, come ha visto voi, si è sentito questo rumore, è andato correndo e ha visto a lui malomettendo. Ma che dai. K, era partito il demolitore. Ti avevo piazzato lo stendino, quello interno, no, che si attacca al muro, quello lì. E lui, per imitarmi, aveva preso il trappolo, meno male, la madre ha fatto il tempo a vederlo. Meno male, che poi anche facendo quelle cose lì, anche a rischio di farsi male. Giuseppe. Lui non è piccolo piccolo, ma il cervello è piccolo. Quindi fa cose che fanno i bambini. Ma è discone come a tutti colori. Cavolo. Allora, arriva! Arriva! Andali! Arriva! Vabbè, tiri. Chiusi. Negativo. Sono portato veramente. È un momento morto. E guardi già che passa lì. Bene. Oia. Ha messo i liti. Ehi. Ah, già lo qua sono portante. Cappa. Arrivo subito, sto arrivando. Comincia a scendere là. Mepe! Kappa! Arrivano su! Kappa! Sto sentendo a te! Kappa, sto scendendo!